Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, grazie a Simone Spezia. Se non è una bocciatura, ne ha tutta l'aria. Infatti la decisione appunto assunta a Bruxelles sulla legge di stabilità italiana e sulle leggi di stabilità, quindi del sistema economico e dei paesi europei dell'area euro, indica tra l'altro l'impossibilità di accedere alla Golden Rule nel 2014. Significa di fatto un colpo che vale più o meno 5 miliardi di euro, quindi la moral suasion di Saccomanni, del nostro ministro dell'economia, non è bastata. La Commissione europea ha di fatto bocciato la legge di stabilità. Il motivo è che rischiamo di non rispettare gli obiettivi del patto nel corso del prossimo anno. Ecco, come vi dicevo, è l'Italia, di cui abbiamo ampio spazio nelle nostre edizioni di GR24, ma ci sono anche le notizie per gli altri paesi. Da una parte la Grecia che viene come minimo rimandata anch'essa, ancora molto lavoro da fare per completare il piano di riforme, così dice Jerome Dijsselbloem, il presidente dell'Eurogruppo. Invece promosse Irlanda e Spagna. L'Irlanda addirittura è diventata l'emblema, perché così è stato esplicitamente citato, come l'emblema appunto della troica, diciamo, come siamo stati abituati a definire ormai Commissione BCE e FMI, di come un paese possa rimettere in ordine i propri conti. Questo è un virgolettato che arriva sempre dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che dice letteralmente: l'Irlanda è l'esempio vivente che i programmi di risanamento messi a punto dalla troica funzionano. Ecco, questo per dare un quadro di massima. Intanto il dibattito, se è vero che ci sono alcuni paesi che vengono rimandati, altri bocciati, altri promossi, c'è poi la questione che in questa settimana ci ha accompagnato, che riguarda il surplus commerciale della Germania, addirittura paesi che godono di troppa salute. Può mettere pressione sull'apprezzamento dell'euro e rendere difficile il recupero della competitività dei paesi periferici dell'eurozona. Insomma, troppo forte gonfia in qualche modo il mercato, alza l'asticella. Così la Commissione UE nel rapporto, era mercoledì pomeriggio, sugli squilibri, con cui per la prima volta ha aperto un'indagine approfondita anche sulla Germania. L'Italia è tornata sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea senza tanto clamore. Debito troppo elevato, povertà e disoccupazione che aumentano, export che soffre, competitività quasi ai minimi. Rumore invece l'ha fatto, e come, l'annuncio che anche la Germania è sotto esame, sia pur per motivi diversi. La Commissione si domanda se il notevole surplus commerciale del paese renda difficile il tentativo di risollevarsi dei paesi periferici della zona euro. In questi giorni se ne è parlato tanto e anche un po' a sproposito, secondo Jan David Schneider, economista dello European Policy Center, istituto di ricerca indipendente di Bruxelles. Il problema, secondo me, è che la discussione si è focalizzata troppo sulla competitività. Il surplus della Germania si deve alla sua competitività e alla sua forza sul mercato dell'esportazione, il che di per sé è positivo. Però sarebbe negli interessi della Germania stessa ridurre il surplus, perché ha, specie nel settore privato, troppi pochi investimenti. Stimolare gli investimenti nel settore privato e in quello pubblico porterebbe benefici all'economia europea e a quella tedesca. Tanto l'analisi sulla situazione italiana che sul surplus tedesco si concluderanno con indicazioni e suggerimenti. Certo, si potrebbe arrivare a una multa, ma sarebbe assai discutibile, dice Schneider. Punirebbe un comportamento che di per sé è fondamentalmente virtuoso. Il punto è far rendere tutta la classe, ciascuno a seconda delle proprie possibilità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Buone notizie invece sul fronte della raccolta differenziata. Milano infatti è ai vertici in Europa per quel che riguarda appunto la raccolta differenziata. In un quadro complessivo di riduzione dei rifiuti urbani, sono 149 kg per abitante di differenziata che vengono recuperati qui nel capoluogo lombardo, a fronte dei 123 di Vienna, 117 di Monaco, 105 di Berlino. Altre città in Italia fanno addirittura meglio, Torino e Firenze soprattutto. Bene, concludiamo dunque con una buona notizia questa settimana europea. L'appuntamento con Europa 24 naturalmente lunedì a partire dalle 14. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.